is filled with thunder and the skies are peaceful above. Bring the beautiful ones again. We know the wonder of the magic power of love. Maria, basta di mezza via, seduto pa' vedere. Non trovo l'ora e pace, a notte faccia giorno, sempre che sacca attorno, sperandoci a parlare. Oi Marie, quante suon che perdo per te, fammi dormire, nata volta abbracciata con te. Oi Marie, quante suon. Marie, una manera, non sei a me ne fa. Sono la chitarra mia, Maria sei scettata, una bella serenata, facimmola sentire. Quanta suon che perdo per te, fammi dormire, abbracciate un poco tutte. Oi Marie, quanta suon che perdo per te. Oi Marie, oi Marie, oi Marie. Oi Marie, quanto suona che perdo per te. Fammi dormire, oi Marie. grazie.

tu non ci sei, mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Cammini come me all'altra parte della strada. Amen. Che sei solo come me all'altra parte della strada. Sing a song, passes by, singing harmony and better. What you say, my friend, some summer night, keep me company, hang together. Sognare mi fa tremare, chissà perché. yo mi margherita, cosa mai la vita, se non c'è l'amore che non ti oppone fa partita. Fior di verbena che qualche pera l'amor ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, sono felice perché sono il fiorello l'amore bello vicino a te. Oggi tutto il cielo in festa, tu ridete brilla il sole. Non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare. Io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa tremare. Di margherita, tu mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa battita. Di verbena se qualche pena l'amor ci dà, ma come il vento che d'un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, felice perché il fioretto d'amore è bello vicino a te. Italia, un bacio.

Cause I finally found someone who really cares. You needed me, you held my hand when it was cold, when it was lost. You took me home, you gave me hope. I was at the end and turned my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world. Thank you very much. Thank you. 接下来和你一起分享一组施特劳斯家族的音乐，曲目有《维也纳森林的故事》《皇帝圆舞曲》《蓝色多瑙河》《春之声》《拉德斯基进行曲》，每首曲子分别有两个版本，分别是童声合唱版和管弦乐版。合唱版由许德昌指挥北京金帆少年合唱团演唱，管弦乐版由卡尔弗莱明指挥奥地利维也纳交响乐团演唱。 Thank you.

Thank you.